Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Sono le 10:06, buona domenica di metà luglio. Da Stefano Gallarini comincia Il riposo del guerriero e prima, come sempre, di raccontarvi l'argomento della puntata di oggi, che comunque su Facebook trovate tranquillamente, per cui per qualcuno non sarà certo un annuncio d'anticipazione, però per chi non frequenta Facebook ancora non lo sa, vi do i numeri, perché alle 11:30 anche oggi giocheremo con il mistero in 24 minuti, la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere in libri digitali oppure cartacei, ammesso che riusciate a risolvere appunto il mistero. La risposta può essere una delle notizie della settimana oppure un personaggio o qualcosa di molto conosciuto. Per arrivare alla soluzione avrete a disposizione degli indizi musicali e questo è il primo indizio. Ma dove vai, bellezza in bicicletta, così di fretta pedalando con ardor. Un vecchio successo riproposto qualche anno fa da Mina, questo è il primo indizio. Il numero verde per prenotarvi, fatelo anche subito, si giocherà alle 11:30 però, è questo 800 24 00 24. Oggi cerchiamo di capire da quale parte stiamo, quale animale siamo. Siamo agnelli oppure siamo leoni, lambs or lion? Insomma, dobbiamo raccontarci le iniziative dal basso che migliorano la vita. Ci sono tanti cittadini che, stufi di una situazione piuttosto che di un'altra, cercano di migliorare la vita propria e delle persone vicine con delle iniziative, e di questo oggi parleremo, proprio partendo da un'iniziativa che si chiama Lambs or Lions, dalla quale poi abbiamo preso il titolo della puntata. Anche voi, se c'è qualcosa che vi dà fastidio, che vorreste cambiare, perché il concetto è che forse è meglio cambiare noi per primi per fare in modo che poi gli altri cambino, fatemelo sapere con un SMS oppure scrivendo nella pagina del Riposo del Guerriero su Facebook. Gli SMS al 349 238 6666. E poiché reputo che la lotta quotidiana per cercare di cambiare le cose in meglio sia uno sforzo da grandi campioni, questa è la canzone con la quale voglio aprire la puntata di oggi. Siamo tutti dei piccoli grandi campioni nella nostra vita quotidiana, ammesso che lo si voglia essere. Lorenzo Viviani, ciao, buona domenica. Buona domenica a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, io ho preso proprio da quella che è il tuo gruppo, il nome del tuo gruppo, per dare il titolo alla puntata di oggi. Un gruppo che si chiama Lambs or Lions, che significa agnelli o leoni, e che ha cominciato a farsi sentire a Milano grazie a un adesivo, che è un adesivo fra l'altro non appiccicoso, cioè di quelli che poi si tolgono perché stanno attaccati con elettricità statica, per intenderci, quindi non un adesivo che non avrebbe rovinato nulla, ma che serviva così a dire delle cose, a far notare una cosa. Allora vi dico subito, l'adesivo veniva così trovato da chi aveva parcheggiato l'auto in modo non giusto, cioè l'auto in un posto sbagliato e quindi intralciando il traffico. Sull'adesivo c'era scritto: guardatemi, ho parcheggiato dove mi pareva alla faccia vostra. E poi c'era la chiave di tutto, perché entrando in macchina l'adesivo ha il retro e il retro spiegava l'iniziativa. Adesso tocca a te, Lorenzo. Allora, noi questa iniziativa, insomma, speriamo che abbia come effetto quello di offrire un momento di riflessione, perché noi non abbiamo nessun intento punitivo, non ci sentiamo minimamente educatori, anzi, questo punto, questo spunto per riflettere è rivolto anche a noi del movimento, perché non siamo perfetti assolutamente, però insomma spingiamo magari la persona che, preferendo i propri interessi a quelli della comunità, ha scelto di posteggiare in doppia fila, in divieto di sosta, che vuol dire sulle strisce pedonali, magari all'ostruzione degli scivoli per i disabili, insomma, speriamo di aiutarlo a capire che poteva anche fare una scelta diversa, una scelta più faticosa certamente, perché mettersi a cercare un parcheggio a Milano non è facile, uno di quelli giusti, diciamo, come hai detto te, però insomma, se noi non iniziamo a pensare che se aiutiamo la comunità a nostra volta siamo aiutati da questa, è la fine. Ecco, quindi, cioè il concetto è proprio, dici, se non cominciamo a migliorare noi stessi il nostro comportamento quotidiano, esatto, andiamo. È il nostro motto questo, cioè proprio, noi diciamo, perché tutto cambi, prima di cambiare dobbiamo essere noi stessi. È inutile lamentarsi in maniera piuttosto anche ipocrita, se mi permetti, di quello che non funziona nel governo, nel Parlamento, eccetera, quando poi nel nostro piccolo i nostri gesti di inciviltà sono paragonabili quasi ai loro. Sì, sì, è molto vero. Questo, ad esempio, lo si capisce dal comportamento che spesso si ha quando si guida e quando si è pedoni, no? Quando si è pedoni si pretende, giustamente, che le persone in auto si fermino davanti alle strisce pedonali, però magari quando siamo noi in auto non ce lo sogniamo neppure di frenare davanti alle strisce. Quindi è proprio il cambiamento di atteggiamento, no? Io ero l'esempio lampante di questo. Il motorino esistevo solamente io come motorino, in macchina nessuno doveva lasciarmi la strada, come pedone mi indignavo se osavano avvicinarsi troppo velocemente. A un certo punto però bisogna rendersi conto, io l'ho fatto piano piano perché comunque anch'io sono ancora in questa fase di cambiamento, perché noi proprio parliamo di cambiamento, sì. E a un certo punto mi sono posto delle domande, cioè per esempio quando porto la spesa a casa mi capitava di parcheggiare sul passo carraio del palazzo di fronte. Mi sono accorto un giorno che stavo dando fastidio e là mi sono detto, beh, forse è meglio evitare. Questo momento in cui ho deciso di riflettere è stato un po' una sorta di rivelazione, dove mi sono accorto che, certo, con un po' più di fatica devo trovare un posto, portarmi le buste della spesa fino a casa, eccetera, eccetera, però almeno do il mio contributo, perché sembra incredibile, ma anche parcheggiare in maniera civile la propria auto è un contributo a che tutto funzioni meglio. E siccome io e altri dei ragazzi che hanno partecipato, che contribuiscono al movimento e alle nostre iniziative, tutti quanti ci siamo ritrovati in questo momento di lucidità, se vogliamo, noi cerchiamo insomma di dare l'occasione anche agli altri di ritrovarsi di fronte a una piccola luce che gli dice, guarda che se ti comporti bene poi ci guadagni anche te, non ti preoccupare. Sì, sarebbe bello proprio che sia come il battito d'aria di farfalla, no? Esatto. Che poi parte piccolo e poi potrebbe scatenare qualcosa di molto più importante. Bravissimo. Allora, io adesso capiremo un po' le iniziative, alla fine, siccome qualche mese che hai cominciato, però mi sembra che si sia già parlato di questo movimento e che sì, qualcosa davvero si sta muovendo. Dopo gli aggiornamenti sul traffico vediamo cosa. Il riposo del guerriero. Con Lorenzo Vigliani stiamo parlando di un'iniziativa che si chiama Lambs or Lions, ovvero Agnelli o Leoni, un'iniziativa che chiede di migliorare noi stessi nella quotidianità per cercare di migliorare anche gli altri. Allora Lorenzo, tu hai cominciato con questi adesivi, poi quanti eravate innanzitutto all'inizio? Solo tu oppure avevi già degli amici? Ma guarda, noi abbiamo cominciato in realtà a settembre con una piccola manifestazione che in realtà non voleva contestare niente, anzi noi abbiamo, dopo l'ultima manovra finanziaria del governo Berlusconi, abbiamo cercato di suggerire ai parlamentari, premettendo che noi eravamo pronti a sopportare ogni sacrificio nuovo, nuove imposte eccetera per l'Italia, perché è il nostro paese, quindi va benissimo così. Gli abbiamo chiesto insomma però di rinunciare a qualche privilegio. All'epoca siamo riusciti a raggruppare una cinquantina di giovani professionisti milanesi, perché questo era il pubblico a cui ci rivolgevamo più o meno. Sì. E poi però con il governo Monti, tanti ragazzi, perché il nostro movimento trasversale, che quindi è servito da contenitore a giovani con o senza esperienze politiche, che venivano da qualsiasi partito, molti di loro sono ritornati ai partiti di origine nella speranza di riuscire a cambiare, creare, e siamo rimasti, è caso di dirlo, in quattro gatti. Questi quattro gatti però in mesi di attesa, di speranza, poi hanno deciso insomma di agire, non di agire colpendo quella che viene oggi definita la casta, ma rivolgendosi proprio a noi che siamo quelli che... Ecco, come la puntata di oggi infatti è partire dal basso, no? Quindi sensibilizzando i cittadini sulle problematiche. Esatto. Ne cito un'altra, è nato un altro adesivo con il simbolo della pista ciclabile, quindi la bicicletta nel cerchio blu, e con scritto: questa è una pista ciclabile, con il tuo parcheggio a regola d'arte, e che è veramente un eufemismo, l'hai resa inutile, complimenti. Ma davvero credi che le tue esigenze sono più importanti di quella di di tutta la comunità di cui anche tu fai parte, beh, svegliati, non è così. Ecco, quindi, in effetti, guarda, proprio l'altro giorno sulla ciclabile qua di Monterosa c'era un'auto parcheggiata con tutto il muso sulla ciclabile che costringeva i ciclisti ad andare sul marciapiede, e anche male, tra l'altro, perché c'è il murettino. E quindi, in effetti, insomma, voi partite da lì per dire, cominciate a pensare, cioè, comportiamoci bene, ma forse questo si chiama senso civico alla fine, no? Assolutamente sì, io alle medie lo facevo, avevo un'ora di educazione civica alla settimana, che a quanto pare ha dato i suoi frutti, incredibilmente. Ma ne parleremo anche oggi di questo, avevo già fatto una puntata proprio sul senso civico, però ci ritorneremo perché è chiaro che si deve partire da lì. Esatto. Comunque sia, voi vi ritrovate ogni giovedì, se non mi sbaglio. Esattamente, ci troviamo ogni giovedì in via Borgogna, al bar Victory, tutti i giovedì alle 19.30, e ci sono persone che, insomma, una sorta di viandanti che passano, alcuni si fermano, altri se ne vanno. Abbiamo raggiunto un gruppetto, perché dalla prima iniziativa, che era quella dell'adesivo, si sono aggiunte un po' di persone, perché chiaramente chi aderisce poi all'iniziativa è un folto gruppo di ragazzi, siamo arrivati a 4.000 contatti via internet, mail, Facebook, Twitter, eccetera. Però poi chi ha voglia di impegnarsi, beh, chiaramente il numero si riduce in maniera drastica, perché appunto il senso civico purtroppo manca, l'entusiasmo per il giocattolo adesivo è tanto, poi però chi intravede il progetto e chi ha voglia di impegnarsi è un pochino più difficile, come al solito, però insomma. Tra l'altro noi, sì, proprio per quell'adesivo della pista ciclabile, sì, abbiamo iniziato a realizzare lunedì, dove un ragazzo del movimento si è sottoposto a una sorta di tortura, cioè ha fatto il giro della cerchia dei Navigli in bicicletta con una videocamera montata sul manubrio, a testimonianza, insomma, che va benissimo, è vero, la pista ciclabile c'è, però diciamoci la verità, spesso è resa inutilizzabile e anzi pericolosa, perché la macchina parcheggiata spinge la persona poi a tornare in strada, a dover fare una deviazione, sì, deviazione spesso brusca, che comporta poi... È già successo, quindi andiamo oltre. Ecco, questo video l'abbiamo poi, grazie a altri ragazzi, una società di editing e di pubblicità che ci ha aiutato gratuitamente, perché tutti coloro che hanno collaborato l'hanno fatto tutti gratuitamente, sì, questa è una cosa che a me è piaciuta tantissimo, ci hanno aiutato a editare il video e mercoledì è stato poi messo online, perché noi ovviamente privilegiamo il web come strumento di diffusione, e ovviamente la sua caratteristica di viralità c'è, piuttosto utile. E questo video lo trovate sia sul sito che su Facebook che su Twitter, lo abbiamo postato diverse volte ed è un video divertente, per cui si vede questo giovane ciclista che, insomma, cerca, ecco, di sopravvivere. Esatto, si parte da Milano ma vale per tutta Italia, ovviamente, quindi potete scaricare tranquillamente e stampare, esatto, anche questi adesivi, anzi questi foglietti a questo punto, che fanno capire come sia sbagliato parcheggiare sulle piste ciclabili oppure prendendo il posto per i disabili. Lorenzo, esattamente quello, io ti ringrazio. Vi ricordo il sito a tutti, che è lemsorlions.it, e cerchiamo appunto Danielli a trasformarci in leoni. Grazie Lorenzo, grazie, ciao, buona tantissimo, domenica. A ciao, presto, ciao. Andiamo avanti partendo dal basso con un'iniziativa che ha avuto un grandissimo successo e che si ripeterà a marzo dell'anno prossimo. Chiara Cuzzola, ciao, buona domenica. Ciao, buona domenica a tutti voi. Allora, Chiara è responsabile dell'organizzazione Fa la Cosa Giusta, ne avevamo parlato già all'epoca di appunto Fa la Cosa Giusta, che ritornerà, perché pare che l'interesse sia veramente moltissimo, sia per quanto riguarda i visitatori, sia per quanto riguarda gli espositori. Esatto, è un interesse che va crescendo, che cresce di anno in anno, e di questo siamo molto contenti. È un po' quello che dicevate prima, un interesse che viene dal basso, che coinvolge sempre più cittadini e che non coinvolge più una nicchia di persone, una nicchia di consumatori, ma che invece diventa un vero e proprio stile di vita. È proprio quello di cui parliamo, no? Fa la Cosa Giusta, di cui parleremo dal 15 al 17 marzo, ma che cerchiamo di parlare anche durante l'anno attraverso Facebook, attraverso il nostro sito. E quindi un Fa la Cosa Giusta che coinvolge tutti, che coinvolge i bambini, che coinvolge le persone adulte, che coinvolge anche gli anziani. Non erano pochi presenti a della scorsa edizione, quindi questo è davvero una soddisfazione, perché vuol dire che c'è una necessità che è trasversale all'interno della società, non soltanto cittadini milanesi, ma cittadini comunque di sicuramente tutto il nord Italia, qualcuno anche organizzato dal centro e qualche delegazione anche dal sud, quindi un successo direi nazionale. Ecco Chiara, quali sono le cose giuste che ti hanno più colpita nell'edizione scorsa? Ma sono state parecchie, diciamo che la fiera appunto è un momento di incontro particolare e privilegiato, perché si ha la possibilità di vedere cosa succede all'interno dell'universo, anche del consumo critico, ma da un punto di vista per esempio legato all'agricoltura biologica, ma anche legato all'abitare in maniera sostenibile, quindi le nuove soluzioni legate alle energie rinnovabili. Abbiamo avuto in fiera la presentazione, la scorsa edizione, della prima macchina ibrida diesel, quindi diciamo la possibilità di entrare in contatto con delle novità particolari, quindi con delle innovazioni che rendono la nostra vita sempre più sostenibile, ma anche nello stesso tempo confrontarsi con quelle che sono delle scelte quotidiane, quindi c'è la possibilità di acquistare un prodotto, ma c'è anche la possibilità di imparare a costruirlo, di imparare a produrlo, e sono cose che intervengono, questi sono degli elementi che intervengono direttamente nello stile di vita di ciascuno. Ci sono stati dei laboratori di cucina, una nota molto bella è stata la presenza del Brasile come paese ospite della scorsa edizione, dove appunto il visitatore si è confrontato prima di tutto con delle esperienze di turismo di comunità brasiliane che sono state davvero interessanti, per vedere come anche in un paese così lontano si stia sviluppando una sensibilizzazione verso dei temi che per noi erano fondamentali, perché appunto la scorsa edizione il tema dell'anno era il turismo consapevole. E poi anche la possibilità di fare dei laboratori di cucina, la Cucina Brasil, dove i visitatori hanno potuto preparare delle ricette brasiliane utilizzando degli scarti alimentari che altrimenti sarebbero stati buttati via. Ecco, quindi cercare di recuperare davvero tutto. Per chiudere, Chiara, ci vuoi dare una piccola anticipazione su quello che vedremo a marzo, se sai già qualcosa? Sì. Qualcosa, vi darò un'anticipazione, e il tema dell'anno sarà la mobilità sostenibile, quindi anche noi lavoreremo quest'anno proprio per presentare delle novità, per presentare dei progetti innovativi, perché il muoversi in maniera sostenibile ha un impatto sia nella vita quotidiana, quindi semplicemente decidere come andare in ufficio, come andare a fare la spesa, ma anche ad esempio come decidere, come pianificare i propri viaggi, quindi sicuramente un focus sulla mobilità sostenibile e uno spazio nuovo invece dedicato ai vegani e quindi agli amici vegani. Grazie, grazie Chiara Cuzzola e complimenti per l'iniziativa. Falacosagiusta.org è il sito. Ciao Chiara, buona Ciao. Domenica. Allora ci fermiamo per la pubblicità, ma poi torniamo perché parliamo in un certo senso di educazione civica, o comunque sia educare al consumo a scuola. Il riposo del guerriero. A proposito di viabilità sostenibile, c'è un ascoltatore che cita un sito che è Macomeca Parcheggi, che però insomma già con la, tra virgolette, con la parolaccia nel sito, l'intento è quello, ironicamente, di fotografare i parcheggi, diciamo così, abusivi in città e renderli noti a tutti, con tanto di targa delle auto non nascosta. E ci sono anche, mi veniva in mente, oltre il car sharing e il bike sharing, in alcune città come Varese e Trento c'è anche il bike sharing con le bici elettriche, perché questa è un'iniziativa che alcune città stanno già prendendo in considerazione, quindi non soltanto bici normali ma anche bici elettriche, quindi a pedalata assistita, quindi è più facile anche muoversi per la città in questo modo, vale anche per gli anziani, così non sono costretti a faticare troppo. Corsina De Paolo, buona domenica. Buongiorno, buona domenica a voi. Corsina è un insegnante pedagogista, ha scritto un libro che nasce dalla sua esperienza, si intitola Educare al consumo, il commercio equo e solidale per una cittadinanza attiva, perché Corsina dice che bisogna partire, e questo lo diciamo anche dall'inizio, dalla scuola e dai più piccoli, giusto Corsina? Difatti. Io innanzitutto faccio una distinzione importantissima su quella che è il consumo e il termine consumo e il termine consumismo, sì, perché molto spesso si dà un'accezione completamente diversa. Il consumo infatti spesso è trascurato in ambito educativo, anche se oggi fa parte delle emergenze del nostro periodo storico. Proprio per questo la famiglia, la scuola e quindi le principali agenzie di socializzazione spesso si sono preoccupate di affrontare il consumo soltanto per parlare un attimino di quello che significa l'acquisto in genere, quello che praticamente oggi invece bisogna soprattutto far risaltare è un tipo di bisogno post-materialistico, cioè appunto si parla di bisogni intesi come valori, e appunto l'autorealizzazione di progetti, di intenti, la relazionalità, la solidarietà, che sono appunto degli esempi. Spesso noi ci dimentichiamo che il ruolo dei mass media, quello appunto della televisione, è quello che costituisce oggi un'agenzia di socializzazione altrettanto importante come quello della famiglia, della scuola, il gruppo dei pari. E non ci rendiamo conto che i ragazzi oggi apprendono il ruolo degli adulti non tanto imitando i genitori e i maestri, ma prendendo appunto a modello i personaggi televisivi. Certo. Per oggi ci si preoccupa per esempio dei giovani che molto spesso hanno una caduta di interesse per quello che costituisce il noi, la parola noi intesa come insieme di persone, società, famiglia, nazione, la chiesa, eccetera. Però tutto questo non fa venir meno invece il senso di appartenenza, il fatto di vivere in una società globalizzata in cui l'altro è entrato nel nostro orizzonte, un altro straniero che permette, diciamo, che rimette, diciamo, tutto quello che noi davamo per scontato. Come dire, è un altro che porta, diciamo, a noi immagini di malattie, di miserie che molto spesso sono, come dire, denigrate da noi. E quindi sembra quasi che vengano a rovinare l'estetica delle nostre città, e quindi proprio per questo mettono in discussione il nostro stile di vita, le nostre abitudini al consumo. E quindi se da una parte questi modelli televisivi istigano all'acquisto indiscriminato, dall'altro invece questa presenza di stranieri, dell'altro appunto, costringe a riflettere su quello che è la povertà del mondo, su quello che abbiamo davvero bisogno di comprare, cioè questo, esatto, è fondamentalmente, esatto. Senti Corsina, difatti, scusami, sì, difatti? Prego. No, dicevo tu. Stavo dicendo, giusto per continuare questo discorso sulla povertà del mondo, è proprio per questo è necessario, diciamo, rivedere il proprio status di consumatore, e per questo io dico che è necessario lasciarsi educare proprio partendo dai più piccoli. Difatti bisogna veicolare i concetti di solidarietà, interculturalità. Ecco Corsina, tu in questo libro appunto che nasce da pedagogista, nasce comunque dalla tua esperienza, sì, che hai avuto e hai, sì, nella scuola tutt'oggi, cosa fai dei giochi? Praticamente che cosa fai? Diciamo che educare al consumo all'interno di un percorso di cittadinanza e costituzione, oggi l'educazione civica viene appunto chiamata cittadinanza e costituzione, sì, presuppone, diciamo, il fatto che i bambini siano diventati ormai un'ampia categoria di consumatori e nello stesso tempo vanno proprio tutelati, educati, certo, accompagnati, diciamo, nel loro percorso formativo. Ma tu tieni delle lezioni dove spieghi delle cose, racconti delle cose, o fai anche delle lezioni pratiche, fai dei giochi, non lo so, cioè sto cercando di capire. Allora, diciamo che io realizzo dei laboratori partendo appunto da quello che spiego innanzitutto che cos'è il consumo critico, il fatto di dover consumare in un certo modo con consapevolezza e quindi capire, cioè porsi delle domande, per esempio chi ha prodotto un certo tipo di oggetto, è stato sfruttato qualcuno per produrlo, quindi parto innanzitutto da queste domande, da queste lezioni aperte che appunto abitano il bambino a riflettere, certo, a porsi, essere critico. Prima di un acquisto a porsi precise domande, da dove proviene, infatti, e certo, se mi serve davvero. Sull'ambiente, il suo smaltimento, anche perché spiego loro che i prodotti hanno un'anima perché dietro di loro ci sono le persone che forse hanno sofferto per produrli, ci sono dei diritti negati, calpestati, ci sono dei bambini che come loro, anziché andare a scuola e anziché stare in una classe, sono invece costretti a lavorare, certo, magari in situazioni inumane. E quindi è proprio su questo che io punto il mio lavoro a scuola, il fatto di mettere in risalto soprattutto i diritti dei bambini, i diritti fondamentali negati. E quindi a qualsiasi età, cominciare dai bambini della scuola dell'infanzia fino alle scuole superiori, si può educare al consumo, appunto, chiaramente a seconda, diciamo, come dicevo, della fascia d'età, si possono comunque rielaborare dei percorsi. Certo, gli strumenti sono ovviamente diversi. Allora, chi ne volesse sapere di più, c'è il volume che ha scritto Crossina De Palo, grazie proprio alla sua esperienza, Educare al consumo, il commercio equo e solidale per una cittadinanza attiva. Ciao, grazie Crossina, buona domenica. Prego, grazie a voi, arrivederci, grazie. C'è Andrea Poggio invece adesso, visto che parliamo di educare al consumo, ma anche a cercare di pulire, perché quello che consumiamo poi spesso va a sporcare le città dove viviamo, e allora dobbiamo ripulire di tutto e magari farlo noi al posto che farlo fare ad altri. Andrea Poggio, buona domenica. Buona domenica a tutti. Andrea Poggio, vice direttore di Lega Ambiente, responsabile proprio di Puliamo il Mondo. Puoi spiegarci la vostra iniziativa che ogni anno si compie? Chiedo scusa, ma sento male in questo momento. No, ti chiedevo della vostra iniziativa, Andrea, che è Puliamo il Mondo. Andrea, non lo sentiamo, e quindi dopo lo cerchiamo di chiamare più tardi. Luca De Eusebio, buona domenica. Buona domenica a voi. Ciao Luca. Allora, tu sei uno degli autori di Come fare un orto o un giardino condiviso, perché esistono anche gli orti e i giardini condivisi. Da dove partiamo? Beh, partiamo dal fatto che come siamo partiti noi, direi. E quindi noi siamo un anno fa circa abbiamo messo online la mappatura degli orti e dei giardini condivisi a Roma. Con nostra grande sorpresa, un anno fa scoprimmo che esistevano 40 realtà nella città di Roma dove i cittadini si sono rimboccati le maniche e hanno deciso di recuperare o un parco con cattiva manutenzione oppure un'area abbandonata che avevano sotto casa. E quindi ci è sembrata una cosa particolarmente significativa e abbiamo messo questa mappa online, che ha avuto un grande successo perché queste realtà non si conoscevano le une con le altre e quindi hanno iniziato a scambiarsi le loro esperienze, a farsi forza. E da questa prima esperienza è nata una rete a Roma degli orti e giardini condivisi, si è scoperto che queste realtà sono presenti in tutta Italia. Un orto o un giardino condiviso significa che ci sono più persone o più associazioni che gestiscono collettivamente uno spazio che da spazio abbandonato torna a essere uno spazio pubblico, quindi fruibile a tutti i cittadini, non solo a quelle persone che lo curano. Questa realtà, conoscendo queste realtà, vedendo che queste pratiche all'estero sono molto, ma molto diffuse in Francia, in Inghilterra, negli Stati Uniti, abbiamo deciso di fare un piccolo manuale su come avviarla, appunto. Se uno ha sotto casa quell'area abbandonata che gli dà fastidio, se ha un bambino e non c'è un'area di gioco vicino a lui, ma anche tante altre cose, il nostro è un piccolo contributo per dare delle idee su come poter fare per recuperare queste aree. Ecco, infatti voi avete scritto un volume, intitolato Come fare un orto o un giardino condiviso, quindi date delle dritte. Tutto è partito da un sito che era zappataromana.net. Ma Andrea, ma questi luoghi sono a casa di qualcuno, nei giardini di qualcuno, oppure proprio sono nella città? Allora, anzitutto vorrei dire che poi questo libro l'abbiamo scritto insieme a Silvia Ciola, Andrea Mangoni e io, che sono Luca De Eusebio e non Andrea. Però a parte questo, tornando invece alla domanda che facevi tu, questi qui sono aree, sono sia negli spazi pubblici sia alcune volte nelle aree private. Se andiamo a vedere queste realtà che, come vi dicevo prima, erano 40 un anno fa, adesso nella sola Roma sono oltre 100, sono aree appunto dove si fanno tante altre cose. In realtà avere un orto, un giardino è lo spunto per fare tanto altro. Chi lavora con i disabili, chi appunto vuole solo avere uno spazio gioco per i bambini, chi vuole promuovere delle attività culturali, chi vuole fermare una speculazione edilizia. Ecco, mettersi insieme alle altre persone è uno dei modi per fare queste cose qui all'aria aperta, in un modo che fa sì che oltre c'è il valore aggiunto di far sì che lo spazio pubblico nelle nostre città aumenti. come ti dicevo, la maggior parte di queste aree sono in parchi abbandonati magari, oppure in parchi con stato di manutenzione, oppure in aree che l'amministrazione non riesce a mantenere, non sono magari un parco, sono solo un'area di proprietà, ma sono anche su aree private dove magari un'altra associazione o un altro soggetto ha avuto in concessione quell'area pubblica, oppure sono aree di proprietà di privati. Insomma, la casistica è molto ampia. L'idea che deve passare è che tante comunità l'hanno fatto e che si può fare, bisogna solo armarsi di buona volontà. Ecco, poi questi orti o questi giardini, dicevi che sono fruibili anche da chi non vi partecipa in realtà, quindi da tutti i cittadini. Ti faccio l'esempio a Roma dell'Hortus Urbis, che è un orto che abbiamo avviato come Zappata Romana dentro il parco dell'Appia Antica, quindi uno dei parchi più belli perché mette insieme storia e natura. Dentro questo parco, che è un parco condiviso perché insieme a noi ci sono gli orti urbani Garbatelle, Eutorto, Slow Food Roma, l'Istituto Tecnico Agrario Sereni e tante altre realtà, alcune università americane, quindi che mantengono questo spazio, tutte le domeniche mattina facciamo dei laboratori per bambini, per esempio, che adesso sono interrotti perché estate, ma che riprenderanno a settembre e proseguiranno poi per tutto l'anno. E quindi bambini, famiglie vengono lì, possono passare del tempo, stanno a contatto con la natura, fanno delle attività diverse ed è un modo per riutilizzare uno spazio che prima di questo progetto era totalmente in abbandono, e quindi è la riattivazione di uno spazio per restituirlo ad attività di tutti. Certo, allora, come fare un orto o un giardino condiviso? Questo è il libro, ma il sito è zappataromana.net. Grazie Luca De Eusebio. Grazie a voi. Grazie davvero. Iniziative che partono appunto dal basso, che comunque coinvolgono i cittadini per migliorare il mondo. Andrea Poggio, adesso dovremmo sentirlo meglio. Ci sei? Rieccomi. Vice direttore di Lega Ambiente, ma anche responsabile appunto di Puliamo il Mondo. Cosa significa Puliamo il Mondo? Beh, ho sentito delle belle storie. Vero? Molto spesso tutte queste belle storie hanno avuto un'origine proprio in Puliamo il Mondo, che è l'accesso al volontariato ambientale in Italia. È un'iniziativa che coinvolge l'anno scorso 3.500 aree in tutta Italia weekend di settembre, quindi quest'anno 27, 28, 29 di settembre, ci si iscrive ora, ci si organizza con i propri vicini e si ripulisce una piazza piuttosto che un giardino pubblico. Spesso, e quest'anno sarà dedicato proprio Puliamo il Mondo ai posti belli d'Italia, abbandonati e sepolti talvolta dalla monnezza abbandonata. Succede a Pestum, così come succede nel Parco dell'Appia Antica a Roma, piuttosto che in tutte le città d'Italia. Ecco, allora, per tutte le informazioni c'è un sito, giusto? Che è puliamoilmondo.it. Così. Puliamoilmondo.it, grazie. Niente, figurati, grazie a voi per l'iniziativa. Ciao Andrea Poggio, buona domenica. Ciao a tutti. Gli aggiornamenti sul traffico e poi continuiamo. Il riposo del guerriero. E dopo qualche tempo di assenza, finalmente è tornato il nostro Fables. Ciao Fables. Ciao Stefano, salve a tutti, buongiorno. Eccoci qua con l'autore di blog guerriglia.it, una persona, Fables, che si occupa di marketing virale, oltre che essere autore appunto di blog Guerriglia, per parlare proprio di iniziative che nascono dal basso, perché sappiamo la rete è chiaramente il punto di partenza molto spesso, perché per far conoscere ciò che si sta facendo la rete ormai è fondamentale. Sì, assolutamente, guarda, per esempio ti posso parlare di alcuni casi di vere e proprie iniziative dal basso. Una che, se vogliamo, è anche divertente, ma che può far tremare magari i polsi a qualche commerciante, sì, è un'applicazione che si chiama Tassa.li, disponibile per iPhone, iPad e Android. Non ho capito come si chiama, scusa. Tassa.li. Ah, ecco, un'applicazione che ci fa pagare le tasse, meglio, no? Sì, diciamo di sì, che ci fa trovare gli evasori. In che senso? Ah. È tutto basato sulla cooperazione tra le persone, sì, perché non c'è in realtà un qualcuno che gestisce questa applicazione, ma tutto quanto lo sviluppo di questa applicazione viene fatta attraverso gli utenti. In che modo? Una persona va per esempio ad un bar nella sua città, sì, non gli viene rilasciato lo scontino fiscale, allora che fa? Inserisce direttamente attraverso l'applicazione, inserisce la città e l'ammontare dello scontrino. Sì. Se infatti noi adesso a distanza di tempo andiamo sul sito tassa.li, troviamo il numero di segnalazioni, l'ammontare di euro, che è un numero abbastanza spaventoso visto che si tratta di 14 milioni e 900 mila euro. Ecco, questo è l'ammontare totale di tutte le persone che non hanno emesso uno scontrino. Esattamente. E se vado sul sito trovo direttamente la mappa dell'Italia con il classico Google Map con la bandierina indicativa con il numero che mi segnala le praticamente le strutture che non hanno rilasciato uno scontrino. Ecco, c'è una divisione. Ecco, c'è esempio Roma, nel senso Roma faccio un 126, esempio. Sì. Abbiamo Milano con 185, insomma, a seconda di quante segnalazioni sono state fatte su quel determinato posto. Ecco, diciamo una cosa, scusami Fables, che comunque l'applicazione non ha non è che bisogna essere registrati per poter inviare la segnalazione, quindi qualcuno può anche inviare segnalazioni farlocche. Ma sì, teoricamente sì, nel senso che a quel punto basta inviare il numero, l'ammontare dell'euro e la città dove non è stato rilasciato lo scontrino. Nulla di più, cioè basta scaricare l'applicazione e fare questo passaggio qui. Ecco, per ora è semplicemente un puro divertimento, diciamo così, nel sì, senso che... Sì, puro divertimento che però sta dando, secondo me, dei risultati abbastanza efficaci da un punto di vista più che altro quantitativo. Certo, perché la Guardia di Finanza potrebbe andare a vedere quei dati, capire quali sono gli esercenti che non rilasciano lo scontrino e andare comunque a fare una verifica. Esatto, e magari andare più a colpo sicuro su quella determinata città che magari ha un numero maggiore rispetto a quell'altra. Va bene, insomma, quindi l'iniziativa è nata da qualcuno, da un buon tempone, che ha detto adesso ti frego io, se non mi rilasci lo scontrino vedo di fare in modo di fartela pagare in qualche modo. Chissà che poi questi evasori, ammesso che lo siano, davvero poi paghino, speriamo, ecco, nel caso fossero ovviamente tali evasori. E poi questa è una bella iniziativa tutta italiana, immagino, o parte secondo te da un'iniziativa simile straniera? Questa è un'iniziativa italiana, è un'iniziativa italiana che tra l'altro ha anche, diciamo, dei cugini, visto che poi ci sono altre attività di questo tipo, c'è per esempio nonevado.it e c'è evasori.info, così come per esempio un famoso blogger Civati che ha lanciato invece un hashtag su Twitter che si chiama Scontrino Week. Quindi tutta quanta una serie di attività comunque sia basate solo ed esclusivamente attraverso proprio l'iniziativa, certo, insomma, della rete. Data dal periodo, siamo stufi di pagare le tasse solo noi, cioè un po' quello è il concetto, facciamole pagare a tutti e anche a chi cerca di non farlo. Bene, insomma, con un'iniziativa che arriva dall'Italia è ovvio. E poi cos'altro, Fables? Ma guarda, c'è un'iniziativa invece molto più seria che ha qualche mese, però secondo me merita ancora di essere menzionata. Sì. C'era una pagina Facebook dal nome Angeli col fango sulle magliette, nata in occasione dell'alluvione che aveva colpito la città di Genova e le città limitrofe nel periodo di dicembre dello scorso anno. Cos'era? Questa era a tutti gli effetti una pagina Facebook nata da una ragazza di Genova di nome Emanuela Risso, che aveva inizialmente aperto questa pagina per dare solo ed esclusivamente informazioni in merito a quelli che erano l'andamento, appunto, ciò che erano stati i danni provocati appunto dall'alluvione. Sì. In poco tempo però questa pagina è cresciuta di numero, tanto che nell'arco di una settimana aveva raggiunto circa 10.000 iscritti. Ma da semplice pagina di divulgazione di informazione, tutti quanti quelli che sono diventati partecipi di questa iniziativa sono invece state le prime persone che, insieme con la Protezione Civile di Genova, sono poi andate direttamente sul campo a dare degli aiuti. Quindi non è più soltanto una pagina solamente di vetrina che serviva solamente per informare. Certo, esatto. E seguire gli eventi, ma poi è diventata proprio una pagina che in qualche modo è stata seguita da chi praticamente ha dato una mano concretamente e in modo assolutamente autonomo. Con ringraziamenti della Protezione Civile, perché non so quante persone si sono invece poi attivate realmente per andare a dare una mano. Quindi. Ecco, quindi sempre la così anche un modo per informare gli ascoltatori che nel caso si voglia in qualche modo raccogliere adesioni per riuscire a risolvere un problema o affrontarne uno, c'è la rete, insomma, può riuscire a fare questo ed è una bella cosa. Gli Stati Uniti, per esempio, ne sono un esempio, appunto, grazie alla capacità di raccogliere fondi per finanziare dei progetti interessanti. Esattamente, quello che viene definito come crowdfunding. Crowd sta per folla, funding sta per finanziamento. Sì. Che cos'è il crowdfunding? È un processo collaborativo. Perché collaborativo? Perché abbiamo due tipi di figure. Da una parte gli investitori, i finanziatori, quelli che vogliono scommettere con dei loro soldi su un progetto, su un'idea. Dall'altra parte appunto ci sono gli ideatori, coloro che hanno magari un progetto da poter sviluppare, magari interessante, di qualsiasi tipo, di qualsiasi entità, può essere un film, può essere un documentario, può essere, come abbiamo visto prima, può essere un qualcosa di sociale. Un'invenzione, esatto. Magari non hanno i soldi per sostenerla e quindi attraverso questi portali, attraverso questi siti, vanno ad inserire la loro idea, a proporre loro il progetto e a cercare appunto degli investitori. Perché è molto legato a quello che abbiamo visto prima? Perché molto dipende dalla rete di contatti che una persona ha. Ovviamente la base è che ci sia un'idea, un progetto buono, valido, che ovviamente attiri di per sé l'attenzione magari del finanziatore stesso, ma dall'altra parte ovviamente di fondamentale c'è che la persona che propone il progetto riesce a raccogliere i fondi per poterlo, esatto, realizzare riesca in qualche modo a stimolare e a scatenare un passaparola, ecco, quindi allargare il più possibile la rete di contatti. Ma gli investitori che cosa guadagnano e se guadagnano da questo? Se sono piccoli investitori, nel senso, a me piace il tuo progetto, ti do $2, ok? Esatto, quindi... visto che poi in realtà le somme sono queste, per sì. esempio, per parlare di uno tra i siti più importanti, che è Kickstarter, sì. che è quel che è, se vogliamo, il primo tra i primi esempi di crowdfunding negli Stati Uniti. All'interno, per esempio, di Kickstarter si è formato uno dei grandi progetti, che è Diaspora, che è, se vogliamo, un social network che vuole da qui nei prossimi anni andare un po' a combattere, tra virgolette, con Facebook. L'egemonia di Facebook, sì. Esatto. Che è riuscita a raccogliere qualcosa come $200,000 nell'arco di circa 30 giorni. Ecco, però gli investitori non sono quindi grandi investitori, sono persone normalissime che investono pochissimo e che in cambio quindi non hanno niente se non la citazione del proprio nome. Sì, o magari un qualcosa, magari in futuro, un riconoscimento magari maggiore da parte di quelli che sono stati magari coloro che hanno investito di più rispetto agli altri. Ecco, perché si può investire appunto anche semplicemente $1, ecco. Assolutamente, cioè nel senso non c'è un minimo di... Cioè, quello che viene magari fatto all'inizio viene stabilito un budget che deve essere raggiunto. Chiaro, mi piace la tua idea. Ecco, se il budget non viene raggiunto, i soldi vengono restituiti? Sì, dipende, esattamente, nel senso che viene restituito. Se non viene raggiunta quella cifra, magari viene segnato sia il budget che anche il tempo entro cui deve essere raggiunta quella determinata cifra. Se non viene raggiunta quella cifra, si ridistribuiscono i soldi tra chi... Sì, insomma, ritornano i soldi che si sono messi, esatto. Ecco, quindi non si perde nulla. Sì, stiamo parlando poi di progetti importanti, ma per esempio, per parlare di casi italiani, sì. Capital, che è stato, se vogliamo, il primo esempio italiano, tra l'altro con una persona che ha anche redatto un manifesto del crowdfunding, lì insomma non c'è bisogno di un'idea, potrebbe anche essere un qualcosa di semplicissimo come una lista di nozze, quindi magari una persona dà ai suoi amici direttamente quel sito lì, attraverso cui, attraverso il finanziamento degli amici, si riesce ad arrivare alla quota per far partire gli sposi, per esempio. Ecco, quindi... ti abbiamo perso quando hai citato il nome del sito, scusami. Capital. Capital, ok, Capital, punto it. Capital. Ok, e quindi capital. Insomma è uno, chiunque può proporre la propria iniziativa e chiedere un finanziamento, insomma. Esattamente. Poi ci sono anche cose molto più sociali, per esempio Born to Fly, che è invece un altro sito di crowdfunding americano, dove invece loro hanno l'obiettivo di combattere il traffico sessuale dei bambini. Quindi comunque le categorie sono assolutamente le più svariate, insomma, non c'è un qualcosa che vada a definire quello che può essere o quello che non può essere crowdfunding. Certo, nella rete è possibile tutto e anche per migliorare anche la vita sociale e avere delle idee, fare in modo che queste idee poi possano svilupparsi, e questo è un bel modo di vedere il networking, ormai come si definisce il social networking in generale. Io ti ringrazio molto, Fables, e ricordo anche agli ascoltatori il tuo molto interessante blog, che è blogguerriglia.it. Salve. Il riposo del guerriero. È 11:05, ancora buona domenica da Stefano Gallarini, il riposo del guerriero su Radio 24, il rotocalco che oggi vi parla di iniziative che partono dal basso per migliorare la nostra vita quotidiana. Cominciando a migliorare noi stessi, possiamo anche cercare di migliorare gli altri. Le vostre iniziative anche via SMS al 349-238-6666 oppure sulla pagina Facebook del Riposo del Guerriero. Vi ricordo anche alle 11:30 il mistero in 24 minuti, la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere in libri digitali o cartacei. Il numero verde per prenotarvi 800 24 00 24. Ma continuiamo a parlare di iniziative che partono dal basso per migliorare la nostra vita, e c'è Sara Ragusa al telefono. Sara, buona domenica. Buona domenica a tutti. Sara ha pubblicato un volume intitolato A tutto gas, come aprire un gruppo di acquisto solidale, gas appunto, e vivere meglio. E innanzitutto, vabbè, i nostri ascoltatori lo sanno, ma fa sempre bene ripetere che cosa sia un gruppo di acquisto solidale. Un gruppo di acquisto solidale è un insieme di persone che può essere il più disparato possibile, con il numero di persone, per composizione di persone, che si mettono insieme per fare la spesa, per fare una spesa diversa rispetto a quella che facciamo al supermercato normalmente, perché fare la spesa è un atto che dobbiamo fare, perché non abbiamo il nostro orto, viviamo di sussistenza, ed è un atto che ci piace fare in una maniera diversa, in una maniera appunto comunitaria, scegliendo da chi fare la spesa e con dei criteri che possono essere vari appunto a seconda del gruppo di acquisto. Possono essere l'acquisto di cibi biologici, cibi e prodotti biologici, oppure si può decidere di dare sostegno alle cooperative sociali, oppure ancora si può scegliere un prodotto piuttosto che un altro a seconda della quantità di imballaggio, quindi per avere un minor impatto ambientale. Un altro criterio importante che utilizzano i GAS come scelta dei propri fornitori è quello della vicinanza territoriale. I GAS si autodefiniscono piccoli, locali e solidali. E locali appunto perché sono in contatto diretto con il proprio territorio e vogliono essere profondamente in contatto diretto con il proprio territorio. Sia per una questione di impatto ambientale, quindi le merci non devono fare molti chilometri per essere da dove vengono prodotte a dove vengono consumate, e quindi appunto c'è un minor consumo di anidride carbonica, sia per aiutare il proprio territorio e le produzioni del proprio territorio. Ci sono degli esempi di filiera cortissima, ad esempio in Brianza, dove una rete di gas sostiene un produttore che pianta il grano e gli fa avere il pane, quindi proprio tutta la filiera del pane a casa, che è una cosa che si mangia tutti i giorni e cui non pensiamo da dove arriva normalmente il nostro pane, il grano che viene utilizzato per fare il nostro pane. Ecco, sì, scusami Sara, allora nel libro tu cominci dicendo: innanzitutto bisogna capire se è meglio aprire un gruppo di acquisto solidale oppure associarsi a un gruppo di acquisto solidale. La differenza chiaramente è ovvia, ma secondo te in questo momento vale la pena associarsi o aprire perché ce ne sono pochi, o associarsi perché ce ne sono già molti? Allora, dipende dal proprio territorio. Siccome il gas è una cosa che bisogna frequentare, non dico settimanalmente come il supermercato, ma magari con una cadenza un po' meno stretta, però comunque è un posto che bisogna frequentare, un gruppo di persone che si frequenta. Cioè bisogna comunque garantire un acquisto o degli acquisti durante un certo periodo di tempo? No, non è necessario garantirlo, però se uno decide di fare parte di un gas, acquista il gas. Certo. Effettivamente poi frequenta le persone che ne fanno parte per spartirsi i prodotti. E ovviamente non è facile, comodo e invogliante dover fare tanti chilometri per far parte di un gas, quindi uno deve vedere un po' quello che c'è nel proprio territorio e capire se nel proprio quartiere piuttosto che nel proprio paese c'è già un gas, quanto è grande questo gas, perché anche il numero di persone che ne fanno parte è un criterio per cui aprire un nuovo gas o meno, perché normalmente in media i gas sono composti da 25 famiglie più o meno, quindi se ce ne sono più piccoli ce ne sono più grandi, però più o meno quello è il numero di famiglie che riesce a gestire senza problemi un gas. E quindi se vicino a noi c'è un gas molto grande, forse ha senso aprirne uno nuovo con l'aiuto del gas che c'è già e magari portarsi via qualcuno dell'altro gas per aprire appunto un nuovo nucleo, di modo che ne cresca un altro. Altrimenti, se c'è già un gas piccolo, ci si può è meglio far crescere quello che c'è. Ecco, esatto. Sara, chi volesse sapere dove sono i gas e la rete, insomma, come funziona in tutta Italia, c'è un sito che raccoglie ovviamente tutti i gas che si sono formati. Sì, esatto, c'è un sito che è www.retegas.org in cui si può fare una ricerca molto semplice per vedere quello che c'è vicino a dove si abita. Non tutti i gas che sono che che esistono, sono censiti dal sito, ma molti. Si fa una stima, cioè sono circa 900 quelli censiti dal sito in tutta Italia, si fa una stima che siano più o meno il doppio quelli esistenti. Ecco, Sara, chi abita nelle grandi città ha più difficoltà, secondo te? No, anzi, è facilitato, perché comunque nelle grandi città ci sono molti gas. Non è assolutamente difficile trovare dei produttori comunque vicini alle grandi città. Per fortuna ancora, speriamo per molto ancora, però è ancora facile, sì sì. Va bene, allora se volete saperne di più, magari aprirne appunto uno, come ha detto Sara, oppure aderire a quello che c'è già e capire esattamente come funziona questa iniziativa che fa risparmiare e fa pensare proprio all'ambiente, l'avete sentito, a tutto gas, come aprire un gruppo di acquisto solidale e vivere meglio. Terre di Mezzo Editore, grazie Sara Ragusa, ciao, grazie, buona domenica. Ciao, e a questo punto io vorrei parlare con Titti. Ciao Titti, buongiorno. Ciao Stefano, buongiorno a te. Allora Titti, molti anni fa, ha aperto un'associazione chiamata Il Colibrì e il Gattaccio, perché Titti ha deciso di occuparsi di animali abbandonati. Sì, esatto. È una cosa veramente molto vecchia, risale al 92. Io avevo iniziato a raccogliere degli animali abbandonati o in grave pericolo nel territorio di Senago, e siccome era appena stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge 281, che è quella in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo, avevo chiesto subito all'amministrazione comunale se era possibile realizzare un rifugio come previsto da questa legge. E diciamo che all'epoca la soluzione trovata, insomma, era un po' discutibile, nel senso che il vice sindaco, che era anche assessore all'ecologia, invece che individuare un'area e magari realizzarci qualcosa, ha parlato con dei privati che hanno moltissime proprietà qui a Senago e ha chiesto la loro disponibilità per qualche mese per ospitare me e gli animali in una struttura già esistente. E diciamo che questa cosa è andata avanti, cioè praticamente qualche mese sono diventati 18 anni, per cui insomma io ho continuato comunque ad avere stretti rapporti con le amministrazioni che si sono susseguite, però questo rifugio municipale non è mai nato. Diciamo che poi il tutto ha avuto una svolta decisiva l'anno scorso, perché lo stabile che occupavamo noi, con tantissimi animali, doveva essere abbattuto. D'altra parte era una casa fatiscente, senza il tetto, quindi non ti dico i disagi a tenerci gli animali dentro. E niente, l'anno scorso c'è stata una svolta decisiva, praticamente questa casa andava abbattuta, la proprietà non riusciva a mandarci via, per cui ci ha dato in comodato d'uso gratuito un'altra struttura, che era un centro sportivo in disuso. E quindi noi l'anno scorso a febbraio abbiamo fatto il trasloco, dopo aver fatto tutti i lavori, infatti abbiamo speso anche tutti i soldi che avevamo e abbiamo rimesso la corrente, l'acqua, abbiamo sgomberato le macerie, fatto i lavori di ristrutturazione necessari e quant'altro. Poi diciamo che siamo stati contenti comunque di trovare questa soluzione, perché erano dei prefabbricati molto belli, luminosi, facili da pulire, veramente c'era spazio per tutti, che fossero roditori, che fossero gatti. Ecco, poi infatti volevo arrivare al tipo di animali che tu hai, perché ne hai veramente di tante specie. Poi voi avete avuto uno sfratto, giusto? Però penso che la cosa si sia risolta in qualche modo adesso. Allora, praticamente dopo che noi abbiamo occupato queste strutture, dopo 4-5 mesi abbiamo saputo che praticamente questo terreno andava ceduto al comune, che comunque lo voleva libero da ogni struttura, perché pare non le autorizzazioni non fossero a norma, no? Per cui abbiamo avuto, cioè, di nuovo via via tutti andatevene via. E quindi adesso abbiamo dovuto spostare mercoledì in condizioni disumane, abbiamo dovuto spostare tutti gli animali in un piccolo container che rimane della proprietà, che ci ha dato la disponibilità per l'utilizzo, e tramite il sindaco siamo riusciti a ottenere un altro container che è stato affiancato che stiamo mettendo a posto. Insomma, quindi per adesso gli animali riescono ancora ad avere un posto dove stare. Insomma, questa è un po' la vicenda, ma perché Titti, diciamo così, ne sta uscendo, ma è una settimana importante per lei in questo senso. Adesso io sono gli aggiornamenti sul traffico, Titti. Poi invece volevo chiedere, proprio visto che tu sei nata da sola, hai cominciato questa attività da sola con un'idea, proprio grazie alla legge che è stata approvata, e vorrei capire chi si è avvicinato a te, chi ti dà una mano e quali tipi di animali hai. Tra pochissimo. Il riposo del guerriero. C'è Titti al telefono, che 18 anni fa ha fondato l'associazione Il Colibrì e il Gattaggio, si occupa di animali abbandonati. Oggi chi ti aiuta, a parte i veterinari che ti aiutano con dei prezzi agevolati, ovviamente, per venire incontro alle esigenze che avete, e poi ci sono dei volontari che gli danno una mano, Titti? Dei volontari che portano cose da mangiare, la sabbietta, le coperte per l'inverno piuttosto che i maglioni, insomma le cose che possono servire. Ecco, Titti non vuole soldi, ecco, cioè lei dice: io preferisco che mi diano appunto cibo, sabbietta, cose che mi servono, giusto, per portare avanti questo rifugio. Senti, a parte cani e gatti, Titti, tu hai anche animali molto diversi, tipo tartarughe, i porcellini d'India, sì, i topolini da laboratorio. Ma da dove ti arrivano questi animali? Allora, bisogna tenere presente che purtroppo qualsiasi animale si può acquistare. È bello vederli in vetrina, la gente li compra, però poi bisognerebbe sapere, quando si acquista un animale, che cosa si porta a casa, no? Quindi la tartarughina, che ha un diametro di 200 cm. Ne abbiamo già parlato, diventa grande e poi non sai più dove metterla, sì. Ecco, bravissimo. Te ne devi liberare, sì. Bravissimo, poi questo è un ragionamento che vale per tutti i tipi di animali, ci sono capitati gli animali più disparati, eh? Poi non so, ad esempio l'anno scorso a settembre, primo giorno di apertura della caccia, un cane, un bretone di un cacciatore ha preso un leprottino, una mini lepre di un paio di settimane, e l'ha portata viva al proprietario che ce l'ha portata, e ci siamo attrezzati per farla diventare grande. Adesso è stata adottata da una ragazza di Legnano che la tiene benissimo in un posto enorme. e ripeto, cioè, la nostra attività riguarda sia gli animali che vengono acquistati, che poi per un motivo o per l'altro non possono più essere tenuti dai proprietari. Certo. No? Adesso ad esempio gli ultimi gatti che mi sono arrivati sono tutti vittime di sfratti. La gente va a abitare in posti molto più piccoli e non può più permettersi di tenere nemmeno il gatto, quindi. Esatto. quindi anche un problema dei tempi, in effetti. Ci sono tante associazioni che si occupano appunto di salvare e di in qualche modo adottare animali abbandonati, però a questo punto ti dice una cosa vera: prima di comprarne uno, insomma, cerchiamo di renderci conto se poi potremo anche tenerlo per il tempo, ecco, bene. Tutto il tempo, perché è veramente un impegno, quindi non soltanto un piacere, ma è anche un impegno. Titi, tu non hai un sito internet, vero? C'è un profilo su Facebook. Ok, che si chiama? Che si chiama Il Colibrì e il Gattaccio @facebook.it. Ecco, quindi se volete contattare Titti per qualunque ragione potete farlo attraverso il famoso social network. Grazie Titti, buona domenica. Grazie mille, altrettanto. Ciao. A voi. Grazie a te. Per quanto riguarda le iniziative che partono dal basso e la nostra partenza, un po' per chiudere il cerchio della puntata di oggi, prima del nostro mistero, parliamo di qualcosa che parte da noi, appunto migliorando noi, facendo qualcosa per noi e per gli altri, possiamo poi migliorare anche chi ci è vicino. Grazie a Pratella, l'abbiamo già avuto modo di ascoltarla un po' di puntate fa, perché lei, la presidente del coordinamento Banche del Tempo e vicepresidente nazionale delle Banche del Tempo. Grazie, rieccoci insieme. Ciao, buona domenica. Ciao, grazie. Allora, come sta andando la Banca del Tempo? Nel senso che è sempre più il tempo a disposizione, oppure le persone si stanno un po' defilando, visto il periodo? Come sta andando? Ma diciamo che le Banche del Tempo stanno abbastanza bene in questo periodo, proprio perché c'è una situazione di crisi e quindi le persone hanno bisogno. E ci si viene incontro, no? In qualche modo. Sì, ci si aiuta, quindi tante obiezioni o problemi che potevano sentirsi una volta come domande o come richieste, adesso non ci sono più, veramente la gente ha capito che la Banca del Tempo è una cosa utile. Io aggiungerei che fa anche bene alla salute, perché chi si impegna nella banca del tempo ha la possibilità di esprimere le proprie capacità, competenze e quindi si sente anche meglio, insomma. Ecco, ci sono delle competenze o dei settori che in questo periodo storico sono aumentate rispetto agli altri? Ma sì, per esempio direi questa richiesta di piccole riparazioni, perché in un momento in cui non è facile avere il denaro per cambiare degli oggetti in casa, per esempio avere qualcuno che ti ripara delle cose, dei piccoli elettrodomestici, non so, penso anche cambiare la guarnizione, tu dici cambiare la guarnizione del rubinetto, no? Ecco, certo, che non tutti sono capaci, certo. Non è troppo difficile, sì, ma non tutti lo sanno fare, sì, bisogna anche avere gli attrezzi giusti. Tu dici, sì, quindi sì. Io chiedo a qualcuno una mano in questo senso e io in cambio cosa posso offrire? Posso offrire quello che so fare, anche perché non offro direttamente alla persona che mi fa il servizio. Ma metto a disposizione. Metto le mie competenze nella banca del tempo e quindi chiunque abbia bisogno di quello che io sono capace di dare, che potrebbe essere la torta, l'aiuto con un bambino, non so, cucire dei pantaloni, ecco, io lo posso fare. Ecco, si guadagnano dei crediti, vero? Cioè nel senso che certo, si usano dei crediti e si spendono dei crediti, esatto. Perché un'ora vale un'ora, quindi se io ricevo un servizio che è durato un'ora, ho un debito e quindi darò un'altra cosa a qualcun altro per l'equivalente di un'ora. Certo, certo. Però posso darlo anche di 2 ore, se ho bisogno di tempo, di 2 ore di tempo per fare quello che devo fare, sarò a credito a quel punto anziché a debito. Ecco, bisogna essere consapevoli che queste possibilità ci sono, perché tante volte se ne parla, poi non si sfruttano, non si usano, ci si dimentica. Grazie al sito per avere tutte le informazioni. www.banchetempo.milano.it, ed è quello del nostro coordinamento, e poi anche noi abbiamo aperto come coordinamento da un po' da qualche giorno, insomma, la pagina Facebook. E coordinamento banchetempo di Milano.facebook. Sì, beh, sì, no, certo. E poi c'è il sito dell'Associazione Nazionale, oppure ci sono i siti delle banche del tempo. Entrando nel nostro sito www.banchetempo.milano.it ci sono i link. Esatto, per tutte le altre città, per cui in qualunque città siate, troverete una banca del tempo ad accogliervi. Grazie certo. A Pratella, buona domenica. Grazie. E adesso è il momento del nostro gastronauta. Il gastronauta. Ciao Davide, buongiorno, buona domenica. Buona domenica a tutti, anche a te ovviamente. Tante le iniziative che partono dal basso per aiutarci a vivere meglio e anche migliorare noi stessi, ma tu oggi invece di cosa ci parli? Ma sai, è un tema questo del momento, nel senso che ti posso fare una chiosa su questo, che ci sono moltissimi produttori ormai che si affacciano sul mercato, che la loro produzione è frutto delle loro passioni, quindi molti lasciano il loro mestiere, quello che avevano cominciato a fare, per dedicarsi, non lo so, molti fanno biscotteria, per esempio, ho trovato sia in Sicilia che in provincia di Treviso signore che facevano tutt'altro mestiere, che visto che facevano i biscotti così buoni a casa se le sono cominciati a produrre. Mi ricordo questa biscotteria Lori e biscotteria Bettina, ti dicono già i nomi, che sono di signore appunto, che magari prima facevano le informatiche o altro, e all'improvviso questa loro passione è diventata. Ecco, ci sono anche importanti aziende, no? Che colgono la stessa cosa dando nomi di persona ai loro prodotti per farli sembrare più genuini, no? Sì, no, ma in questo caso... hai perfettamente ragione, è verissimo che molte volte magari per far apparire buoni prodotti al sud si dà il nome Gennaro e magari al nord è Mario Rossi, è evidente questo, questa è la tecnica del marketing. Ma io oggi vorrei invece lanciare un'altra come scialuppa ai tuoi radioascoltatori, è questa, che d'estate si cucina senza fuoco, cioè si fanno piatti molto freddi. Allora c'è la mozzarella con il pomodoro, quindi la famosa caprese, c'è il tonno con fagioli o tonno con peperoni o tonno con pomodoro. A me piacerebbe così lanciare questa idea, dateci dei piatti di cucina del freddo, cioè non cotta appunto sui fornelli per far prima, perché in realtà non si può sempre mangiare quelle due. Ecco, la domanda è però, scusami, l'insalata di riso dove la collochi? Perché prima il riso deve essere cotto, per capire, semplicemente. Hai ragione, l'insalata di riso è cotta, però potremmo farle rientrare anche dentro, anche la pasta fredda con il pomodoro, ad esempio. Sai, bisogna ricordare che diciamo c'è stato un personaggio che ha inventato una pasta fredda che ha fatto il giro del mondo, ed è Gualtiero Marchesi, con i famosi spaghettini, caviale ed erba cipollina, e devo dire che poi tutti l'hanno copiato. Allora io vorrei che, magari come abbiamo fatto con le pizzerie, abbiamo fatto con le gelaterie, che sono arrivate numerose queste diciamo risposte, mi piacerebbe che la gente mi rispondesse cosa mangia d'estate senza cuocerlo. È evidente che uno non può dire un piatto di verdura o un piatto di pomodori, però qualcosa in cui ci sia anche qualcosa di piacevole, non solo perché... Sì, qualcosa che magari non è conosciuto da tutti o che vi siete magari inventati. Ecco, questo ecco, è un po'... Ti sei inventato qualcosa? Io no, sinceramente no, non ancora. Anche perché io ti posso dire una cosa mia, che d'estate, malgrado faccia caldo, io tendenzialmente preferisco sempre il piatto caldo, sempre e comunque, non ho, ho proprio questa cosa. Insomma, sei di quelli che dice che dove non passa sì, il caldo non passa il freddo. Per me il piatto deve essere sempre fumante, poi c'è al tempo per raffreddarsi. Non mi piace molto la cucina invece fredda, in generale non la amo, a parte il vitello tonnato. Ecco, vedi, tu hai tirato fuori il vitello tonnato, però sai, anche lì la carne bisogna... È cuocerla, appunto, è questa la domanda, cioè è veramente vuoi ricette che non abbiano davvero bisogno del fuoco o che possono aver avuto bisogno del fuoco prima per poi essere preparate dopo? No, perché la mia guerra è contro i cuochi e allora io voglio qualcosa che non venga cucinato. Per dare queste dritte a Davide Paolini, cosa devono fare gli ascoltatori? Devono mandare info@gastronauta.it. Ecco, una bella mail con le vostre indicazioni. Grazie Davide, buona giornata. Ti dirò che la prossima settimana dirò qual è il piatto vincitore di questo concorso e l'annuncerò, darò anche nome e cognome del vincitore. Bene, e allora... Magari andrò a mangiare con lui o con lei questo piatto. Ecco, allora, quindi sappiatevi regolare. Grazie Davide, buona domenica, ciao. A presto, ciao. Grazie a tutti voi per aver seguito Riposo del Guerriero. Continuate a stare su Radio 24, tra poco Si può fare. Grazie a Margherita Aina in redazione, in assistenza. Grazie alla regia di Peter Bescapè. E a voi, buona settimana. Da Stefano Galarini, a domenica prossima.